Di cui ci fai molto riflettere quello del dolore, ne abbiamo anche un po' parlato. E tu hai detto di rifiutare l'idea del dolore necessario e soprattutto il dolore colpevole, però dici anche che non c'è dolore inutile. In che senso lo dici? Comunque, vediamo se riesco in pochi minuti a spiegare innanzitutto queste categorie. Perché il mistero del dolore è sempre stato il banco di prova, no? della verità, delle idee, delle dottrine. E quindi le diverse religioni, ma ragioniamo pure, stiamo pure sulla religione cristiana, diciamo il cristianesimo, ha offerto paradigmi diversi per spiegare darsi del dolore, perché spiegare è una necessità della mente. Noi vogliamo capire, siamo intessuti di razionalità, nel senso della relazionalità. Se pensate quello che ci insegna la fisica nel nostro organismo, la fisica, la chimica, cioè, provate a ridurvi ai minimi termini, ridurvi agli atomi, rimaniamo agli atomi, poi gli atomi se già si scendono i protoni, i neutroni, e poi sotto ci sono i fermioni, i bosoni, i gluoni, tutte queste cose, ma gli atomi, poi gli atomi si relazionano, generano le molecole si relazionano e generano diciamo le cellule, c'è qualcosa di mezzo ancora, ma le cellule si relazionano ordinatamente e generano i tessuti generano i nostri organi generano i nostri sistemi e i sistemi e gli apparati formano l'organismo. Perché avere questa cosa? Cosa c'entra? C'entra perché se capite che la logica che ci costruisce, che ci intesse come se fossimo veramente una razza, è esattamente quella della relazione, del logos, logos, ancora una volta, sveniamo con la parola che dicevo che ha generato religio, che genera legge, che genera legione, unità ordinata. Allora la logica non è qualche cosa che riguarda appena il sudoku e le parole crociate, queste cose, ma è veramente ciò che ha a che fare con il movimento dell'essere, nella misura in cui produce fenomeni ordinati, nella misura in cui non è semplice caos. L'energia diventa materia ordinata e produce organismi viventi esattamente perché logica, perché è dotata di una logica relazionale che unisce le particelle e gli atomi e le molecole e le cellule e produce cose, fenomeni ordinati. Allora, il bisogno di capire che emerge dalla nostra mente non è qualche cosa, come qualche predicatore ancora dice, di peccaminoso, lo vuoi capire, e non è neanche un vezzo così, ma è un'esigenza profonda, proprio profonda del fatto che noi siamo logica, noi siamo logos, noi siamo unità. Lego, tutti voi avete giocato con il Lego da bambino, immagino, il Lego, è la stessa radice, sempre LG, ma è la stessa radice. Allora c'è bisogno di capire, bene, primo aspetto. Diciamo metodologico, le risposte quali sono? Ma le risposte che la teologia ha dato sostanzialmente sono, lungo tutta la storia, sono quelle maggioritarie, sono due. Una è la prima, secondo il paradigma del dolore colpevole, e la seconda è il paradigma del dolore necessario, e io rifiuto entrambe, le combatto, mi sono aperto, sfodero la mia spada e duello. Sono cose, soprattutto la prima, blasfema, ma anche la seconda, negative, fanno male, fanno malessere, producono, per la volontà di spiegare, possono produrre delle vittime, possono generare ancora maggiore dolore rispetto già a quello che il caso, la fatalità ha generato. Ovvero, qual è il paradigma del dolore colpevole? È molto semplice, quello dell'omicidio. Se qualcuno di voi ha letto il libro di Giobbe, i tre pensatori, i tre amici che vanno da Giobbe non sono liberi pensatori, Elifaz, Bildad e Zofar. rappresentano esattamente la teologia maggioritaria del tempo, ovvero Dio è onnipotente, Dio è sommamente giusto, ergo se tu hai una malattia, questo non può che essere la conseguenza di un'ingiustizia che Dio, nella sua somma giustizia, nella sua somma onnipotenza, vuole punire. Non si muove foglia che Dio non voglia. Se tu se tu hai subito questa malattia, se tuo figlio ha subito questa malattia, c'è un colpevole. Magari non sei tu, magari è tuo nonno, magari il tuo bisnonno. Difatti si dice nel libro dell'Esodo, Dio punisce fino alla terza, quarta generazione. Noi portiamo le colpe. Poi, naturalmente, la riflessione biblica va avanti, ci fu la grande pagina liberatoria, sia di Geremia sia di Ezechiele, che dicono che i figli non sono responsabili delle colpe dei padri, ciascuno risponde per se stesso. Grande apertura di contestativa rispetto alla prospettiva tradizionale. Ma in ogni caso, questa è la prospettiva ancora oggi largamente diffusa, soprattutto nel mondo non cristiano. Nel mondo islamico, per esempio, ma anche in molti aspetti molto correnti del mondo ebraico, laddove si ha questa concezione di un Dio volontà assoluta e veramente padrone, arbitro di ogni singola foglia. Non si muove foglia che Dio non voglia, è il versetto di una sura del Corano, sura 13 del Corano, tra l'altro, che è diventato poi anche il nostro proverbio, in realtà originariamente viene da lì. Ebbene, in questa prospettiva, dove si fa dipendere dalla volontà diretta della divinità ogni avvenimento, è del tutto chiaro che la prospettiva maggioritaria con cui si legge il dolore che capita all'uomo è quella all'insegna della colpevolezza. È stata una prospettiva molto diffusa nel nostro mondo. Io ho parlato, quando ho scritto il dolore innocente, oggi girato in Italia un po' esagerato, ma insomma ne ho fatto di conferenze in giro in Italia, ricordo più di una signora o di signori che mi raccontavano, per esempio, che avendo avuto un figlio, un nipote, per esempio con la sindrome di Down, per esempio con una delle altre malattie genetiche, lo si teneva chiuso in casa, lo si teneva chiuso per grande vergogna. Perché questa grande vergogna? Ma perché c'era questa ipoteca morale nei confronti dell'handicap. È certamente una punizione, c'è certamente qualcosa di cattivo che va punito, che va sanato, nella prospettiva del dolore colpevole, e che è una prospettiva terribile, terribile. Nel Vangelo è anche presente, quando i discepoli vedono il cieco nato, siamo nel capitolo 9 di Giovanni, non so se qualcuno di voi si ricorda, lo vedono e dicono: ma maestro, chi ha peccato? Perché è nato così? Lui o i suoi genitori? Lì si vede proprio la fotografia, l'opera del paradigma del dolore colpevole. C'è uno che nasce con cecità e chiaramente ci deve essere una colpa che va punita, perché non si può pensare che Dio sommamente potente, sommamente giusto, permetta una cosa di questo genere. Un'ingiustizia palese come quella di nascere senza poter vedere, è un'ingiustizia palese, ma se c'è questa ingiustizia palese è solo come conseguenza di una altrettanto ingiustizia che andava punita. Quindi chi ha peccato? Voi, i suoi genitori. E voi sapete qual è la risposta di Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché si manifestino le opere di Dio. Laddove la risposta di Gesù è molto chiara nella Pars Gestures, che nega quello che non bisogna pensare, un po' meno nella Pars Conspues, che cosa vuol dire che è così perché si manifesta nel proprio, non è del tutto chiaro, lo lasciamo lì perché non dobbiamo parlare di questo adesso. Seconda prospettiva, la maggioritaria oggi nel mondo cattolico, quella del dolore necessario, che a mio avviso pure inaccettabile, la si ritrova nel catechismo, l'attuale, con l'attuale in vigore, la si ritrova in molti discorsi dei papi. In questo momento che sto parlando in mente soprattutto la Salvifici Doloris, che è una lettera, non è l'enciclica, è un'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, e domina interamente questo documento. Che cosa? Che è esattamente la prospettiva del dolore necessario, e la quale è molto semplice: Dio non vuole il male, ma lo permette. E perché lo permette? Per trarne il bene maggiore. Se voi prendete in mano, che tra l'altro questa è una frase di Sant'Agostino che si trova nell'Epilidion, è un'opera di Sant'Agostino che viene citata e ripresa dalle parole del Catechismo. Quindi noi siamo di fronte al cospetto di, per esempio, di una bambina che nasce cieca o che nasce con una delle 7.000 o quasi 10.000 malattie genetiche di cui parlavo prima, e come la si interpreta, se Dio non l'ha voluto direttamente. Nel primo caso si dice l'ha voluta direttamente, questo secondo caso dice non l'ha voluta direttamente, ha fatto, non è intervenuto, diciamo così, nella natura che si andava evolvendo in modo erroneo, in modo fisiologicamente non corretto, non è intervenuto, l'ha permesso. E perché l'ha permesso? Naturalmente mistero, noi non lo sappiamo, ma comunque sappiamo che è per un bene maggiore. Dolore è necessario. Necessario per scaturire, perché il nostro mondo venga in un certo senso redento, in un certo senso nel nostro mondo venga, ci sia più amore, ci sia più non so come dire, ecco, questa è la prospettiva, perché non vedete, non trovo neanche le parole, perché non ci credo a questa cosa, quindi non mi vengono le parole per sostenere questa prospettiva. Anche perché, tra l'altro, è illogica, perché non si può dire non vuole ma permette, perché nella misura in cui si permette una cosa la si vuole, qualunque amministratore del condominio è responsabile, nella misura in cui può impedire qualche cosa che non vuole e non la impedisce, è responsabile di questo, quindi non è qualche cosa di completamente illogico. Naturalmente dietro il problema del dolore ci sta il rapporto Dio-mondo, il rapporto della teodicea, il rapporto problemoni. Che cosa io sostengo? Sostengo questo, che si deve parlare al contrario di dolore innocente, di dolore che avviene, che non è colpevole, che non è neanche necessario, non è voluto, non è strumentalizzato. Dio non usa le sofferenze di un bambino o di una bambina per costruire un bene maggiore, per edificare la mia anima, no? Perché se fosse così, peraltro, bisogna dire a chi sostiene queste cose che sarebbe moralmente condannabile, perché non è lecita la teoria secondo cui il fine giustifica i mezzi. E se voi prendete il catechismo attuale della Chiesa Cattolica nella parte morale, cioè nella parte morale, vuol dire in quegli articoli che trattano dell'etica, voi vedete che si condanna giustamente questa idea strumentale della vita, per cui si condanna la prospettiva e la logica secondo cui si può compiere un male al fine di un bene. Si dice no, questa cosa non funziona, non sta in piedi. Però stranamente quando si tratta di Dio, si applica a Dio questa stessa logica che viene condannata nella parte morale, la si applica nella parte, per così dire, come la chiamiamo, dogmatica, la chiamiamo così, questa seconda parte. E quindi io nego questo tipo di prospettiva, dico che cosa? Dico semplicemente che la natura è abitata dalla fatalità, è abitata dal caso, è abitata dall'assurdo, ci sono momenti in cui la natura è non governata. La natura non è in balia di se stessa, e prova ne sia l'evoluzione, il fatto cioè che esiste un processo continuo da milioni di anni che produce evoluzione nel vero senso della parola, cioè un processo ordinato di accumulo di informazione e di complessità, e dalla prima organismo unicellulare è comparsa la vita umana con tutta la sua, e prima ancora la vita umana la vita di altri milioni e milioni di organismi, secondo un movimento progressivo ed evolutivo. Però questa progressione evolutiva avviene in modo non necessitante, come è qualcosa che sale dal basso. Questa logica di un'evoluzione che sale dal basso, che non scende dall'alto ma sale dal basso, sale come tutte le cose che salgono, quasi fosse una pentola che bolle, così via, qualche goccia, qualche spruzzo, a volte anche più di uno spruzzo, inevitabilmente va fuori. Questo è ciò che io vedo, magari qualcuno vede qualcos'altro, ma questo è quello che vedo. Vedo che un governo effettivo della natura esiste, perché c'è esattamente questo processo evolutivo, ma vedo al contempo che non è un processo lineare, non è un processo ordinato. E se voi pensate che le malattie genetiche sono esattamente, come dire, la condizione perché ci sia l'evoluzione, Voi a questo punto, se provate a ragionare, vi capita la stessa cosa che è capitata a me, ma dove siamo capitati? Cioè, esattamente grazie al fatto che si danno le malattie genetiche, che si danno le mutazioni non previste, esattamente grazie a questo che si ha l'evoluzione, perché altrimenti si avrebbe la continua ripetizione della medesima struttura, saremmo ancora tutti fermi alla membra primordiale. Quindi questa è la suprema dialettica dentro cui siamo capitati, che noi, va bene. Se questo è, in che senso dico e concludo che non esiste dolore inutile? Non è utile il dolore per l'ordine del mondo in sé, cioè non c'è un altare di qualche divinità che aspetta il dolore degli innocenti per placarsi, era distratta e così questo soffre e torna ad amare l'umanità. Ecco, tutto questo è assolutamente da bandire. Dico che uno, il fatto che noi possiamo prendere coscienza del carico di dolore che l'umanità, e non solo l'umanità, anche il mondo animale, porta con sé, perché se la vita si via, perché la vita prosegue, tutto questo già non è, appunto, non fa di questo dolore qualcosa di utile. Questo dolore può giungere a generare lo spirito. Cioè lo spirito, nel senso più profondo del termine, cioè quella volontà di aderire completamente alla verità del mondo così come si presenta, ma al contempo di trovare una dimensione superiore a questa verità del mondo, e di una dimensione superiore che possa riscattare questa inutilità del dolore, questa assurdità, questo abisso del dolore. Ecco, questa duplicità di cose rende il dolore che appare, nella misura in cui lo pensi, nella misura in cui lo porti dentro di te, ti fai scavare da tutto ciò, rende questo, come dico, non inutile. Può giungere un dolore di questo tipo, un dolore degli innocenti, i quali loro, in quanto tali, non avranno, come dire, nessuna consolazione dal fatto che io ne prendo coscienza, probabilmente. Ma se io ne prendo coscienza, e se prendendone coscienza faccio sì che altri ne prendano coscienza, e si crea tutto ciò che poi la coscienza umana è capace di creare in favore di questo dolore innocente, beh, allora quell'inutilità ci può essere. Concludo pensando al secolo che ci ha generato, il nostro padre, il Novecento, che viene denominato come il secolo dei genocidi, e lo è stato. Ma è anche il secolo, il Novecento, che per la prima volta ha conosciuto il momento nel quale l'umanità ha preso coscienza che la parità dei diritti, ha preso coscienza della quella che chiamo adesso, scusate se sono quasi un po' stanco in questo momento, poi parlando di queste cose non è semplicissimo, ma è quella che chiamiamo parità ontologica di gli esseri umani. Cioè per la prima volta nel Novecento che si è giunti a riconoscere parità ontologica a quelli che prima venivano semplicemente chiamati mostri. Perché le persone handicappate, noi adesso le chiamiamo così, persone handicappate, persone diversamente abili, eccetera, e il linguaggio fa fatica a trovare peraltro una terminologia adeguata, e quando il linguaggio fa fatica è segno che il pensiero fa fatica, perché il termine dottore esiste nella lingua italiana dal XIII secolo, da quando la lingua italiana esiste, e non c'è nessuna possibilità che tra 50 anni, tra 100 anni, 100 anni, nella misura in cui c'è l'italiano, il termine dottore viene evoluto, perché tutti sono contenti di dirlo e tutti sono contenti di riceverlo, a partire dai posteggiatori, venga dottore, a dire tutti, è una cosa che gratifica, e quindi è una parola stabile. Al contrario, quando hai un'evoluzione del pensiero, c'è qualcosa di nuovo, o da nuovo, di nuovo che devi dire, il neologismo, qualche cosa comunque che provoca disagio, allora c'è la ricerca di parole sempre diverse, formulazioni sempre diverse. Pensate a Anfas, quella S di Anfas, voi tutti sapete che Anfas è un'associazione di genitori che ha cura di bene, quella S di Anfas sta per subnormali, Oggi chi direbbe subnormali? Eppure 50 anni, 60 anni fa, non so quando, è stata fondata l'Anfas, questa cosa era normale. Ed era già meglio rispetto a mostri. Era già un passo in avanti. Ebbene, quando il Novecento ha preso coscienza di questa cosa, è sorto per la prima volta il senso della parità ontologica di tutti, di tutte le persone umane. Quindi, anche se nascono in modo più sfortunato rispetto alla fisiologia, come la fisiologia prevede, anzi forse proprio per quello vanno maggiormente tutelate. E questo è esattamente la presa di coscienza del dolore. Il fatto che qualcuno abbia capito queste cose, le abbia sentite, le abbia vissute, e ha inciso, e c'è ancora molto cammino da fare, ma già si è, diciamo, entrati in un processo estremamente virtuoso. Quindi non dolore colpevole, non dolore necessario, parlare del dolore come qualcosa di certamente innocente, che capita, di innocente nel senso di non voluto, senza progetto, che capita, e però prendere coscienza di questo può portare veramente a superare quel senso di assurdità e di rassegnazione amara che si ha di fronte al dolore, e il dolore a sua volta può diventare, tra virgolette, utile. Sappiamo di aver già ricevuto molto da questo scambio con Vito Mancuso, ma vorremmo dedicare qualche minuto al colloquio vostro con lui. Molti di voi hanno sicuramente letto i suoi libri, l'hanno ascoltato e sono venuti anche con la curiosità di approfondire, per cui non avremo molto tempo, anche perché la vostra attenzione è stata molto bella, ma è stata messa anche un po' alla prova. Però se ci sono delle, se c'è qualche domanda, qualche curiosità, o anche semplicemente, eccola. Prego, come preferisci? Vedere. Allora, vorrei porre questa domanda. Io ho letto i libri di Vito, che apprezzo profondamente. Io sono tutta un'educazione cattolica, per una ragione che non posso dire, mi sono allontanato da questo. E i libri poi fanno capire il lavoro straordinario che sta facendo un qua. È preziosissimo dal mio punto di vista. E cerco di diffonderlo con tutte le persone che conosco. Perché credo che la ragione per cui i libri di Vito sono così importanti è perché rispondono a un bisogno profondo che c'è oggi, di autenticità. In fondo, se le cose che sta sostenendo Vito, Mancuso, con tanto calore sono vere, allora qualcun altro sta sbagliando e qualcun altro sta insegnando in modo dogmatico, cioè per decreti. E siccome io ho scritto questa cosa in modo molto grave, l'ho sentita sulla mia pelle e quindi capisco quanto importante sono, la domanda che faccio è questa: come laico, proprio se sento il suo pensiero, io posso arrivare a questa conclusione? Certamente vedo un progresso della materia, una materia che si sceglie insieme ai suoi libri. E a un certo punto compare qualcosa che è lo spirito, che non c'è negli animali, cioè c'è solo l'uomo con la coscienza, col fatto che possiamo empatizzare non solo vicino a noi, ma sempre in modo più ampio, la nostra famiglia, le persone più lontane, fino alle altre stesse. Ecco, la domanda che volevo fare a Mancuso è: per poter raggiungere a questo è necessario ipotizzare che ci sia un Dio che ha creato, o può succedere che il Dio è creato a sua volta dall'evoluzione? Non possiamo sapere tra queste due cose. Non può essere un fenomeno emergente, perché certamente sono persone che hanno raggiunto dei livelli divini come Offer e con altri che citano. Ecco, questa è una prima domanda. Io direi di fermarsi a questo. Vito, preferisci che ti raccolgo qualche domanda? Raccogliamo qualche domanda, d'accordo. Io intanto la volevo ringraziare per avermi riconciliato con la teologia. Non ho letto niente e stasera mi sento molto piena e molto incuriosita. Le vorrei chiedere se vede e sente una affinità, ecco, tra autenticità e purezza di cuore, e se il dubbio è la motivazione sufficiente per il miglioramento del sé. altri? Raccogliamo appunto un po' di domande, credo poi daremo a Vito Mancuso la possibilità di rispondere insieme. Ci sono altre curiosità? Sì. Anche io appartengo alla schiera di coloro che conoscono da tanto Vito Mancuso, da Ferrara, da 8 e mezzo, da tanto tempo. Appartengo alla schiera di coloro che si sentono, pur avendo avuto un'educazione cattolica come il Signore, assolutamente laici. E fanno fatica a non essere più cattolici. Questo è per me un punto che, un pensiero, una riflessione ossessiva quasi, nel senso che lei prima ha detto non mi interessa dirmi non mi incasellarmi o non incasellare nella categoria del cattolico, ma io per esempio mi chiedo se avessi un figlio, ancora non ce l'ho, lo farei battezzare oppure no, perché per me la mia esperienza cattolica è stata ricchissima emotivamente. Io adesso mi sento mancare qualcosa, però io non ci riesco, perché comunque la mia ragione, il mio rigore non mi fanno essere capaci in questo momento di aderire a tutta una serie di cose che, con le quali invece Vito Mancuso, io parlo per me, ma credo che questo sia il vero motivo per cui in tanti hanno comprato il libro fondamentale a mio parere mio suo, cioè L'anima e il suo destino, ovvero il fatto che ci possa essere una dimensione che parte dalla tradizione cattolica, che non è genericamente spiritualeggiante, ma che parte da quello che è il nostro modo di pensare, la nostra cultura, e che allo stesso tempo però sposa i nostri bisogni di adesso. Io faccio fatica a litigo, faccio a volte con una visione del peccato originale, faccio a volte con la visione della condanna all'inferno, perché comunque sia ho bisogno di pensare alla pietà, per prima cosa, perché se mi riconosco come valore dell'uomo nell'amore e nel rapporto, non posso pensare che Dio condanna qualcuno all'inferno. Certo, lo so che poi si è detto che l'inferno se c'è è vuoto, però comunque sia, di queste cose qui io credo che abbiamo bisogno, questo è, e quindi vorrei spostare un po' e chiedere un intervento sull'aspetto dell'anima e del suo destino. Vorrei sentire Vito Mancuso sui temi che l'hanno fatto rendere famoso a tanti di noi, ovvero il peccato universale, il purgatorio, l'inferno, l'anima che non è creata da Dio. Questo è. Facciamo un appuntamento con Lucena. Prendiamo un altro. Sì, c'era prima. Allora, intanto tutti avvicini e prendo questa domanda. Prendo altri due o tre, poi credo che dovremmo. Sì. Volevo chiedere a Vito se poteva declinare un po' anche la parola autenticità con la parola gioia e felicità. Grazie. Eri tu, sì. Io abbasso forse un po' il tiro con questo Mancuso, perché non mi è chiara una cosa. Lei ha parlato di dolore non necessario, però poi quando ci spiegava come una persona che nasca diversamente abile è poi necessaria per l'evoluzione della specie umana, per esempio, beh, allora io penso di aver perso un passaggio. Allora quindi è anche necessario quel dolore, perché alla fine, grazie a quello, siamo giunti dove siamo. Quindi se vi potesse spiegare questa piccola cosa. Grazie. Lei voleva dire che si può alzare, questi due, poi direi, non so se poi Vito ha, come dire, tempo per rispondere a tutti, mi dispiacerebbe. No, io vorrei tornare sulla verità. Se ho ben capito la parola di Mancuso, la verità è una categoria individuale, parte dall'uomo authenticus, quindi entra in se stesso, quindi chi è se stesso e chi vede se stesso dice la verità. Poi c'è una verità che si può costruire, è la verità di quella di quel fanciullo che è interrogato dal maestro, dice non mi pare che non è un ubriacone. Forse mi sembra una verità un po' forzata, perché in realtà non è la verità. Quella verità potrebbe essere forse espressa in un modo diverso. Io no, mio padre non è un ubriacone, perché in realtà sì, vedo un po' troppo, ma vedo perché ha un dolore. Ma mi domando se non esiste una terza categoria di verità anche guardando se stessi, cioè una verità che uno crede, non mettendosi la maschera, ma che crede di avere, che credo di poter sperare. Io vorrei fare un esempio un po' errante, se volete, ma quando Berlusconi dice io sono Napoleone, ho 150 anni di governo, non c'è stato mai nessuno come me, è convinto di dire la verità, io sono convinto, credo di dire la verità, ma noi sappiamo, almeno pensiamo, che questa non sia la verità. Allora mi domando, e le domande, ma la verità è una categoria individuale o è una categoria relazionale? In altri termini, una categoria individuale o è una categoria che si costruisce col dialogo, con l'altro? Grazie. Grazie a lei. La signora. Sì, volevo sottolineare questo. Dunque, il problema dell'autenticità e della spiritualità, credo che tutte e due sia un'esigenza forte quella di affrontare queste due dimensioni, per questo Mancuso risponde senz'altro a questa esigenza. Però ecco, il problema è, per me, questa autenticità e questa spiritualità che io vedo nel caso di Mancuso affrontate tutte all'interno comunque di una visione cattolica, possono fino a che punto possono essere dette con le parole, dimostrate razionalmente, o quanto invece hanno bisogno di una testimonianza di vita e quindi anche cattolicamente, ma non solo, debbano essere vissute. E cioè, dove sta il punto di passaggio tra un vivere autenticamente e vivere una dimensione spirituale e il parlarne, fino al punto che parlarne diventa mondanizzarle, utilizzare forme che non innovano nemmeno all'interno del mondo cattolico, perché mantengono strumenti, modalità che sono in fondo quelle che della Chiesa, diciamo dell'istituzione così come si è definita fino ad oggi, poi sono quelle che ha sempre usato. Cioè, dove sta l'autenticità, la spiritualità di una testimonianza piuttosto che di un parlarne, e soprattutto di un parlarne in certi modi, in certe forme, in certi luoghi? Grazie. Direi che è anche difficile, immagino ci saranno anche altre domande, ma è anche molto difficile immaginare che possa rispondere ancora rispetto a tutte le cose molto vaste che ti hanno chiesto. Quindi partiamo così. Ma la prima domanda diceva se Dio può essere un fenomeno emergente. Certissimamente un fenomeno emergente sono le nostre immagini di Dio, su questo non ci sono dubbi. Le nostre immagini di Dio sono qualcosa che emerge, sono un fenomeno, sono qualcosa che evolve, e non solo le immagini pre-cristiane degli dei, dei pagani, ma anche le stesse immagini cristiane, che all'interno del cristianesimo esiste un'evoluzione delle immagini, quindi certissimamente è così. Poi che cosa posso dire ancora? Se io credo fermamente che esiste una logica intrinseca alla realtà che prescinde dalla percezione umana, che ha portato ordine e armonia nel mondo ben prima dell'apparizione della mente umana. Pensiamo alla vita. Homo sapiens sapiens, se prendiamo gli ominidi arriviamo a 2 milioni di anni, ma Homo sapiens sapiens c'è da 150.000 a 160.000 anni, la prima. Sapiens sapiens, ovvero che sa e sa di sapere. No, per quello ci chiamiamo sapiens sapiens, solo perché sappiamo, di sapere, non siamo semplicemente coscienti, il cane è anche lui è incosciente, noi siamo autocoscienti, sappiamo di essere, di sapere. E questo appunto esiste da 150.000, 160.000 anni, stando a quello che dicono Relata Refero, la vita esiste da 3 miliardi, quasi 4 miliardi di anni. E se noi pensiamo a quanto sia complessa l'organizzazione della vita, beh, come dire, cioè abbiamo due possibilità, o divinizzare il caso, e a questo punto lui dice è caso, ma a questo punto diventa il tuo Dio il caso, divinizzi il caso, o altrimenti riconosci una logica intrinseca al mondo stesso, logos, che poi prende coscienza dell'uomo, che si forma nell'uomo e che gli uomini chiamano divino, e poi giungono, mediante l'evoluzione di tutti questi concetti e così via, a chiamare diversi nomi. Ma per essere più concreto, poi, per quanto riguarda proprio l'improbabilità della vita, noi siamo in un piccolo pianeta di una delle 100 miliardi di galassie. Non sappiamo se questi 100 miliardi di galassie ci siano o no forme di vita. C'è chi dice sì, c'è chi dice di no. E si ragiona più sulla base di sentimenti probabilmente che su altro, ma stando proprio al fatto che da noi è capitata la vita, noi sappiamo che per il darsi della vita occorrono quattro elementi biochimici: le proteine, gli zuccheri, i grassi e gli acidi nucleici. Ora, dicono che semplicemente le proprietà contrarie al darsi della catena così complessa delle proteine sono, dicono, io riprendo il brano, la cifra da un bellissimo libro di Paul Denis, il cui titolo è Da dove viene la vita, pubblicato da Mondadori, lo si trova negli Oscar, Mondadori. Bene, le proprietà contrarie al darsi della vita sono 10 elevato a 40.000. È un numero cosmico, un numero per scrivere il quale io devo prendere questo foglio bianco, scriverci uno qua sopra e riempirlo di zeri. Poi devo prendere una ventina di altri fogli e riempirli tutti di zeri, più o meno. E ho 10 elevato a 40.000. Allora, da un lato ho una montagna di palline nere che sono appunto il no alla sintesi delle proteine. E dall'altro ho un'unica pallina bianca che invece è il sì. Guarda, nella lotteria cosmica è uscita da lì. Ma questa è, sono le proteine, una. Poi ci sono i grassi, ci sono gli zuccheri, c'è il composto, è la composizione di tutto questo, è la composizione in modo tale da dare origine alla prima cellula vivente, e poi la prima cellula vivente che si unisce ad altre cellule, fino a generare organismi con trilioni, miliardi di miliardi di cellule quali noi, fino a generare una mente che vede tutto questo. Ora, dalla mente che vede tutto questo può scaturire anche l'immagine di Dio, e Dio è un prodotto della vita della mente, certo, e non ci sono dubbi che per quanto riguarda le raffigurazioni mentali di questo del Dio di cui parliamo, queste sono a loro volta raffigurazioni e sono creazioni nostre. Ma noi sappiamo che la nostra mente che produce queste raffigurazioni a sua volta è comparsa, c'è stata, è venuta da questa materia mater, da questa energia che diventa materia mater, ordinata. E quindi, secondo me, è esattamente il mistero della vita, il mistero della vita ordinata. La vera domanda non è, secondo me, quella di Leibniz, come spesso i filosofi ripetono, Leibniz e poi Heidegger, cioè perché c'è l'essere e non il nulla. Ma secondo me, perché ci potrebbe essere l'essere caotico. L'essere c'è da sempre, come magma, tohu vabohu, dice Genesi 1-2, per dire questo caos informe, la terra deserta informe delle origini. La vera domanda è perché c'è il cosmo, cioè perché c'è l'essere ordinato, perché c'è la vita. Questa è la vera domanda, la meraviglia delle meraviglie. Aprire gli occhi e guardare e capire. Se poi alziamo gli occhi e guardiamo cosa noi di buono gli esseri umani, noi siamo veramente, e abbiamo le nostre ragioni noi italiani, sono state anche evocate qui prima. Abbiamo le nostre ragioni noi italiani per essere un po' pessimisti sul fenomeno umano, poi con i figli del Novecento, dei genocidi, ma se appena appena veramente prendiamo coscienza del fenomeno cosmico che noi costituiamo, della ricchezza infinita che è essere viventi, coscienti e capaci di produrre armonia come questa sala, come queste cose, queste creazioni. Voi siete toscani, quindi non c'è bisogno che dica voi che cos'è l'arte. Beh, insomma, se prendiamo coscienza di tutto questo, veramente uno fa una respirata profonda così via e dice grazie alla vita, insomma, veramente. Secondo me questa è l'eucaristia più naturale, l'eucaristia, grazie, il ringraziamento più naturale, più potente che esiste. Per me questa è una grandissima via per pensare che Dio ci sia, che certamente è un mistero, certamente è al di là, è l'unica vera, l'unico vero uso legittimo della parola mistero, della quale io diffido, perché molto spesso viene usata una specie di refugium teologorum quando non sanno come cavarsela, mistero. è il dono mistero. Se usa, però l'unico vero uso legittimo è proprio quello del mistero profondo, è proprio il darsi della vita. E questo è la scienza a insegnarlo, a mostrarlo. La non so se avrò risposto o no, ma così sono stato capace. La seconda domanda mi diceva se c'è affinità tra autenticità e purezza di cuore. Ma distinto io rispondo proprio di sì. Rispondo assolutamente, è stata lei signora che mi ha posto, rispondo assolutamente di sì. Forse non è un caso che io da sempre, fino a quando ero ragazzo, ho sentito di tutte le beatitudini di Gesù, proprio questa, beati puri di cuore perché vedranno Dio come la mia preferita. E non è un caso che sono giunto a scrivere un libro sull'autenticità, quindi sento che... Ecco, laddove naturalmente il cuore, secondo la Bibbia, dice proprio l'integralità, si ricollega con la dimensione integrale della persona. Il cuore è la mente che sa, ed è anche però la volontà che sa utilizzare in un determinato modo le cose che sa la mente. Perché noi possiamo sapere e utilizzare le nozioni che sappiamo lì, in modo, come dire, appropriativo, affermativo, per affermare noi stessi. La purezza di cuore invece è quella che utilizza il sapere, il potere, così, in modo puro, cioè non in modo egoistico, appropriativo, rivolto verso se stessi, ma in modo tale da servire la logica relazionale del sistema dentro cui sono inserito, a partire dalla famiglia e via via tutti i sistemi di cui noi facciamo parte. Se il dubbio è la condizione, per lei dicevo poi, se il dubbio è la condizione per la purezza del sé. Per il miglioramento. Per il miglioramento del sé. La mia risposta è stata anche un po' prima. Secondo me, nella misura in cui il dubbio è, come anche per Cartesio, funzionale alla ricerca della verità, chi vuole cercare la verità nella vita deve giungere per una volta, chi vuole cercare la verità deve giungere per una volta nella vita, deve dubitare di tutto. Allora, in questa prospettiva, se si pone chi vuole cercare la verità deve dubitare, va benissimo, penso che sì, che la risposta sia un sì. Chi al contrario esercita il dubbio così, non per cercare la verità, ma per ritagliarsi questa isola beata dove poter sempre non legarsi a nulla, no, si deve dubitare. La terza domanda era, a me è interessato soprattutto della sua domanda, soprattutto la prima parte, quando lei parlava di se stessa, insomma, diceva che non riesce tranquilla, in un certo senso non si può più dire cattolica, sente di doversi definire laica, e al contempo però ha una certa nostalgia nei confronti dell'essere cattolico, perché l'essere cattolico l'ha dato molto, e si poneva anche la domanda sul battesimo, ed è una domanda che mi viene rivolta spesso questa, se battezzare no, i figli e così. Una volta mi trovavo amato, adesso la rivedo ancora, proprio venne davanti a me una bella signora con un pancione, perché era già avanti nella gravidanza verso tempo, mi raccontò di essere stata catechista, di essere stata estremamente impegnata nel mondo cattolico, e mi disse: vede, però questo bambino io non so se battezzarlo o no, lei cosa mi dice? Mi dice a riguardo, va bene, io le dissi di sì, l'adesione alla religione nostra, dei nostri padri, della nostra storia, della nostra tradizione, cioè la religione dei noi italiani, che è il cattolicesimo, sia per chi crede nei valori spirituali, che se uno non crede nei valori spirituali, ma chi crede nei valori spirituali, penso che sia auspicabile. C'è, secondo me, bisogno non tanto di gente che rinuncia a essere cattolico, c'è, così la vedo io, bisogno soprattutto di cattolici che stanno nella Chiesa da adulti, esercitando la ragione e contribuendo all'evoluzione di questo organismo, dell'organismo ecclesiale, che sia sempre più, come dire, autentico, usiamo pure questa parola, sempre più capace di servire il mondo, perché la verità dell'autenticità della Chiesa da che cosa si capisce? Dal fatto che la Chiesa faccia il suo mestiere, cioè che sia al servizio della storia e della vita degli uomini. Più la Chiesa è capace di servire la vita concreta degli uomini, più è se stessa. Più la Chiesa è arroccata e difesa rispetto alla vita degli uomini e delle donne e così via, pensando di essere una cittadella assediata, di stare lì, più non è se stessa. Cioè proprio il senso ultimo della Chiesa, questo l'ho imparato da un teologo toscano, che il cognome Severino Dianic, leggendo il suo bellissimo libro quando era in seminario, studiava, sentiva la Chiesa in missione, dice di San Paolo, non ricordo ancora, il senso era proprio quello di questo, il senso della Chiesa è essere missionario, più la Chiesa è missionaria nel senso di essere legata al mondo, in funzione del mondo, per gli altri, più è se stesso. Poi sulle questioni più concrete che lei poneva, sai, ci vorrebbe, diceva di in breve di riassumere l'anima e del suo destino, di parlare dei dogmi che riassumo, mi capisce che è un po' che contesto è un po' difficile adesso. Posso semplicemente dire questo, proprio a modo di slogan per quanto riguarda l'anima, che è un tema sul quale io ho riflettuto tanto e ho parlato tanto su di queste cose. Cioè che voi non dovete pensare di avere l'anima, non dovete pensare di avere l'anima, come se come io ho gli occhiali, o come avete la camicetta e le scarpe, avere una cosa, non è una cosa che si ha. L'anima è una cosa che si è, sbagliato, non l'ho detto bene, è uno stato dell'energia in cui voi consistete. Tutto quello che noi vediamo attorno a noi è energia, anche questo tavolo, questo microfono da cui io sto parlando, queste cose che sembrano inanimate, tutta questa materia, no? nel suo consistere, consiste ed è solida questa materia solamente per il vorticare degli atomi e sotto gli atomi dei protoni, degli elettroni attorno al nucleo e all'interno del nucleo dei protoni e neutroni e all'interno dei protoni e neutroni, dei fermioni, dei bosoni, come ci insegna la fisica quantistica. E praticamente quello che a noi ci appare solido, in realtà è solido per meno del 90%. Se è solido, se è consistente questo tavolo, ecco la parete, tutto va, è perché tutto gira, tutto si muove, tutto lavora. Allora, qual è il discorso? Qual è... lo stato inanimato, lo stato inanimato per esempio di questo tavolo è quello nel quale la totalità dell'energia che compone questo tavolo si traduce totalmente nella massa corporea di questo tavolo. Allora hai totale dell'energia meno massa corporea che produce il tavolo uguale a zero, e il tavolo non si muove, non c'è energia che lo possa far muovere, è inanimato. Perché ecco il fenomeno concreto di cui parlavo all'inizio, perché la mente umana in tutti i tempi, in tutti i luoghi è giunto a inventarsi, anche qui così come si è inventato il termine Dio, certo si è inventato, ma per dire quale fenomeno concreto, no? Per dire quale fenomeno concreto si è coniato il termine anima? Esattamente per dire la vita. Perché? Perché pensate al vostro corpo, anche il vostro corpo è come questo tavolo, un vorticare di energie e di elementi, ma il totale dell'energia che vi costituisce non si traduce totalmente, non si esaurisce totalmente nella massa corporea del vostro corpo, rimane un surplus libero, e questo surplus, questa eccedenza di energia libera è ciò che consente al corpo di essere vivo, a partire dalla prima forma di vita vegetale, sussultito le forme di vita animale fino alla vita umana. Questo è l'anima, animus, vento, e dice questa libertà di una parte della nostra energia che ci consente di muoverci. Questi sono gli oggetti animati, viventi. Quindi semplicemente questo mi limito a dire, ci sarebbe molto da parlare, ma quando parliamo di anima noi dobbiamo pensare questo, è uno stato raggiunta dall'evoluzione dell'unica cosa che esiste, che è l'essere energia. Posso vedere se ho capito il concetto? Allora, noi non siamo un corpo che è abitato da un'anima, ma siamo un'anima che è rivestita da un corpo. Si può dire così? È vera la prima parte. Noi non siamo un corpo nella quale penetra dall'alto, giunge dall'alto qualcosa, o al momento del concepimento, come si dice oggi, o dopo 40 giorni, come si diceva un tempo. Ecco, non c'è nulla che piove dall'alto, tutto scaturisce dal basso, dalla materia mater, e per questo la materia si chiama così, materia, mater. E la lingua dei nostri dei padri latini ha chiamato la materia, materia, perché la madre, mater, di tutte le cose, anche dello spirito. Lo spirito è il frutto più bello del lavoro della materia. Naturalmente il frutto più bello del lavoro della materia è tale da generare una condizione diversa, qui è il discorso dell'emergentismo, di un paradigma emergentista, per cui la torta, senza gli elementi la torta non sarebbe tale, ma una volta che li metti insieme, la torta è più di un mezzo chilo di, non so, io non sono pratico, di farina, di pepe, di uova, di cioccolato, così via. No, li metti insieme, la torta è uno stadio diverso, di più. Non è una semplice somma, e se gli ingredienti non li sai mettere alla stessa maniera, la torta non viene. Ecco, questo è il fenomeno dell'emergentismo, qualcuno lo chiama emergenza, che dice che appunto il risultato è più della somma semplice delle parti. E questo è quello che viene anche dentro di noi, avviene, tutto il mondo è fatto così. Prima parlavo dei fermioni e dei bosoni, che secondo la fisica quantistica più il modello standard sono la base della materia. E noi siamo fatti di questo, ma questi evolvono e costituiscono via via tutti i vari livelli, per cui noi non siamo semplicemente un ammasso di atomi e di molecole, siamo molto di più, pur essendo anche un ammasso di atomi e di molecole. E l'anima è esattamente il concetto che esprime questo stadio più alto del lavoro dell'energia. Tra l'altro poi l'anima si dice in molti modi, perché tutto ciò che vive ha un'anima, che gli animali hanno l'anima, si chiamano animali, hanno un livello, un primo livello, il primo, secondo, che sia, se ci mettiamo che la vita vegetale, diciamo, un secondo livello di vita dell'anima, intendendo esattamente parole, e si sale fino all'anima spirituale, fino alla purezza dello spirito, ecco, è così. Ma magari tra qualche tempo facciamo una cosa solo sull'anima. Poi, gioia e felicità, mi è stato chiesto, vado veloce perché diventa tardi, dire gioia e felicità, mi è stato di dire qualcosa, io posso semplicemente dire questo così, ma mi rendo conto che devo correre, ma... l'ho già accennato prima, noi siamo corpo, noi siamo psiche e noi siamo spirito. Io ritengo che lo stato di benessere del corpo si designa come piacere. Il piacere è legato al nostro essere corpo. Esempi penso che siano del tutto superflui. La felicità è legata al nostro essere psiche. La felicità è quella che ti fa saltare di gioia, stai vedendo la partita di calcio, scusate l'esempio un po' banale, salti e non sai stare fermo, salti, senti bisogno, l'euforia, questa è la felicità che riguarda la psiche. Noi siamo spirito. Il benessere dello spirito è ciò che designa la gioia, è ciò che viene espresso mediante il termine gioia. La gioia, diversamente dalla felicità che ti fa saltare, ti pone in uno stato di quiete. Quando sei nella gioia, sei felice di dove sei, non ti vuoi muovere, ma puoi anche giungere a piangere per la gioia. È una cosa diversa dalla felicità, che gridi. La gioia è qualcosa che è più contenuta, più delicata, al contempo più profonda. L'insieme di queste cose, quando i rari momenti in cui noi abbiamo il piacere del corpo, perché abbiamo il piacere del corpo, la felicità legata alla psiche e terza cosa, la gioia legata allo spirito, l'insieme di queste cose è l'allegria. Secondo me. Allegria. Che è questo tempo musicale che ci può abitare, che Mozart ha espresso in modo immortale. E infatti questa musica di allegria è tale da dare benessere a tutti i livelli. C'era anche un articolo recentemente sul giornale, su Repubblica, una settimana fa, dove si ribadiva cose stranote del resto, cioè che le mucche producono più latte, le piante fioriscono di più, persino i criminali sono meno criminali, perché hanno messo a Churchland in New Zealand, in Nuova Zelanda, in un posto, hanno messo questi altoparlanti che diffondono la musica di Mozart e guarda un po', miracolo, ma non è un miracolo, i crimini sono notevolmente diminuiti, proprio perché si genera questo senso di allegria e sconfessione. La quinta domanda mi chiedeva del dolore non necessario e diceva che doveva chiarire il tema. Io ringrazio molto per questa domanda, ringrazio per tutte, ma perché è vero, bisogna che ci vuole una precisazione, semplicemente intendevo dire che non è necessario il dolore se lo pensiamo come qualcosa di voluto, visto e permesso dall'alto, da Dio, come qualche cosa per cui Dio può interromperlo, può far sì che questa malattia non si sviluppi, e però invece la permette per Ecco, non è necessario in questa prospettiva, mentre certamente purtroppo è necessario per il dal basso certamente è, come dire, è qualche cosa detta, è la necessità, la nanche di cui parlavano gli antichi greci, che ci può stringere proprio i nostri destini, e a volte sì, c'è questa necessità. Del resto, se noi pensiamo, come dicevo prima, che l'evoluzione, il fatto che noi siamo comparsi, prima io ho fatto questa bellissima si fa per dire, non so, questa, all'insieme della lingua mozartiana, ho fatto questa evoluzione della lingua primordiale, viene a tutti gli animali, Geruto, Homo sapiens sapiens, noi potremmo rivedere il medesimo film con un'altra colonna musicale, non con l'adagio mozartiano, non con l'allegro mozartiano, ma con il lento, con il grave e così via, e vedere tutto questo come qualche cosa di triste, di patetico, per citare Tchaikovsky, di doloroso, assolutamente così. E questa è la contraddizione che è la legge del mondo. Se mi posso permettere una citazione che per me ha molto importanza, perché io ho fatto il dottorato su Hegel, e questa frase mi è sempre stata presente. Cioè, sapete Montaigne che aveva nella libreria Letrali con delle frasi? Vabbè, insomma, anch'io ho nel mio piccolo delle frasi luminose che mi guidano. E questa di Hegel lo è, laddove nella prima tesi, delle 10 tesi di abilitazione per l'insegnamento, lui scriveva: contradictio est regula veri, non contradictio falsi. Cioè, la contraddizione è la regola della verità, del vero, la non contraddizione è la regola della falsità. Due parole semplicissime di spiegazione. Quando io parlo, in questo momento sto attento a non commettere contraddizioni. Quindi in che senso? In che senso la contraddizione è la regola della verità? Lo è nel senso che la verità non è, torniamo al discorso, qualcosa che attiene semplicemente a delle formule, a discorsi, ma è la logica della vita. È vera una cosa nella misura in cui riproduce la logica della vita. E che la logica della vita sia dominata dalla tesi e dall'antitesi, per riprendere questa terminologia, dallo scontro delle forze, da Polemos, che è il padre di tutte le cose, lo possiamo vedere anche riflettendo sul dolore, come abbiamo fatto. Per cui quella medesima legge che impone la malattia genetica in un organismo è la medesima legge che produce l'evoluzione, che produce il progredire del sapere. Questo è. E in questo senso si parla di dolore necessario. Poi uno può anche dire perché il mondo è fatto così, ma è una domanda che non dovete rivolgere a me. La sesta domanda mi chiedeva se verità è una categoria individuale o si costruisce con il dialogo e il rapporto. Io penso che sia una categoria individuale ultimamente, che si costruisce con il dialogo e con il rapporto. Ma ultimamente il tribunale della verità, nel senso pieno, integrale, che dicevo, è l'individuo e la sua coscienza. Penso che sia così che posso adesso in conclusione rispondere. Infine, l'ultima domanda diceva se il punto di passaggio tra il parlare di spiritualità, cioè di questa delicata cosa, che se ho capito bene la domanda era un po' il rischio di parlare di spiritualità e di autenticità piuttosto che libera, il pericolo di mondanizzare tanti discorsi sul parlare di spiritualità, cioè il rischio di renderla merce, uno va in giro, parla, poi vende i libri. Poi ecco qua, la ditta dell'autenticità va in giro. Cosa devo dire? È un rischio che sento molto presente ed è la ragione per la quale sempre più dico di no agli inviti, agli incontri, alle cose. D'altro lato capisco anche l'esperienza di questa sera che incontrare la gente, incontrare le persone, guardarle negli occhi è una grande esperienza di autenticità, e quindi penso che sia un rischio che valga la pena correre. Grazie.